Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti per questa nostra giornata di giovedì 5 dicembre per Radio Zanardi, che naturalmente si confronterà col doccia fredda che arriva dall'Europa sul MES, ma subito Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nelle notizie che ci raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Cile, giustizia per Gustavo Gatica. Brasile rischia di perdere il voto all'ONU se non paga il debito. Honduras, 7 condanne per l'omicidio di Berta Cáceres. Stati Uniti, pastore cristiano che si scagliava contro l'immoralità sessuale si è dichiarato colpevole di abusi sessuali su ragazzini. Trump pensa di mandare altri 14.000 soldati in Medio Oriente per contrastare l'Iran. E ancora, una mamma palestinese riabbraccia il figlio dopo 20 anni e l'Egitto tenta di strappare un cessato al fuoco tra Hamas e Israele per 5 anni. Afghanistan, gli Stati Uniti riprendono a parlare con i talebani. Samoa, strade deserte per contenere l'epidemia di morbillo, 62 i morti. E infine, il processo di mappatura del genoma in Asia rivela una grande diversità genetica. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. Accecato da un proiettile di gomma, uno studente cileno è diventato il simbolo della protesta contro presidente Piñera. La famiglia spera che le sue ferite aumentino la pressione internazionale sull'amministrazione. Durante le manifestazioni la gente grida il nome di Gustavo, 22 anni, stava scattando una foto quando è stato colpito l'8 novembre scorso da un proiettile di gomma. Da quando la gente è scesa in piazza contro la disuguaglianza sociale sono morte almeno 26 persone e 13.000 sono rimaste ferite. 241 cileni hanno subito lesioni agli occhi durante le manifestazioni. Gatica è uno dei due casi di persone rimaste completamente cieche. Brasile, corto di liquidità, rischia di perdere il voto alle Nazioni Unite a causa del debito se non pagheranno 400 milioni di dollari entro la fine dell'anno. Solo 143 milioni sono dovuti per il 2019, secondo il regolamento delle Nazioni Unite. Se un paese è in ritardo per un importo pari o superiore ai contributi dovuti per due anni, può perdere il voto all'Assemblea Generale, a meno che il paese non possa dimostrare che l'incapacità di pagare è al di fuori del suo controllo. Il Brasile è secondo debitore delle Nazioni Unite dopo gli Stati Uniti, che devono pagare almeno 126,6 milioni entro la fine dell'anno per evitare di perdere il voto. Il ministro dell'economia brasiliano ha detto che due giorni fa ha chiesto al Congresso di approvare 130 milioni di dollari in finanziamenti supplementari per coprire le quote ONU del Brasile. Al momento gli stati che continuano a votare nonostante il debito, se non le Comores, Sao Tomé e Principe, e la Somalia, ma l'Assemblea Generale ha votato a ottobre per consentire loro di continuare a votare. Colombia, sindacati e gruppi studenteschi hanno organizzato il terzo sciopero nazionale contro le politiche economiche e sociali del presidente Duque. Decine di migliaia di persone sono scese in piazza. Sono due settimane che la gente protesta. Un tribunale dell'Honduras ha condannato 7 uomini per l'omicidio di Berta Cáceres, l'attivista per i diritti ambientali indigeni, uccisa nel marzo 2016. La sentenza segue un verdetto del novembre 2018, secondo cui la società DEESA ha pagato i sicari sperando che l'assassinio mirato di Cáceres avrebbe placato le proteste da lei condotte contro la costruzione della diga idroelettrica di Aguas Arca. Roberto David Castillo, CEO di DEESA, viene processato separatamente come autore intellettuale dell'omicidio. Castillo, laureato in intelligence militare presso la West Point Military Academy degli Stati Uniti, avrebbe coordinato l'omicidio con il dirigente dell'azienda Sergio Ramon Rodriguez, l'ex capo della sicurezza della Degas Douglas Bustillo, un ex tenente dell'esercito addestrato negli Stati Uniti, e Mariano Diaz Chavez, che addestrò le forze speciali americane che prestarono servizio in Iraq. Stati Uniti, un noto pastore cristiano dell'Alabama, il 39enne Paul Acton Bowen, si è dichiarato colpevole di 28 accuse di abusi sessuali su 6 vittime di età compresa tra i 13 e i 16 anni. Bowen, che è stato lasciato dalla moglie, al suo arresto ha negato le accuse, ora invece rischia decenni di prigione. Nei suoi sermoni condannava l'immoralità sessuale ed è stato anche consigliere del candidato repubblicano anti-LGBTQ Scott Dawson. Ha pubblicato diversi libri, aveva un programma televisivo settimanale visto da milioni di adolescenti. Two civilian employees shot to death and one wounded. Restiamo negli Stati Uniti per una sparatoria al cantiere navale di Pearl Harbor, alle Hawaii. 3 morti, tra cui l'aggressore, un militare in servizio attivo. Le 2 vittime erano dipendenti civili della difesa. Un altro operaio civile è stato ferito e in condizioni stabili. Stai ascoltando Radio Bullets. Affonda una barca carica di migranti in Mauritania, almeno 58 i morti. Un funzionario marittimo del porto di Hodeida ha detto ieri alla televisione in lingua araba Al Masira che 13 navi sono state sequestrate dai sauditi, navi che trasportavano derivati energetici e cibo destinato allo Yemen in ginocchio dalla guerra, navi con i necessari permessi delle Nazioni Unite. Le navi trasportavano 84.000 litri di benzina e 53.000 di gasolio. Il 23 novembre scorso il ministro della sanità dello Yemen ha detto che ogni 10 minuti un bambino con meno di 5 anni muore per la fame, avvertendo che il blocco imposto dai sauditi colpisce pesantemente i bambini e i neonati. Trump pensa di mandare 14.000 militari in Medio Oriente per contrastare l'Iran. Sono mesi che gli Stati Uniti minacciano nuovi dispiegamenti in Medio Oriente, principalmente in Arabia Saudita e nelle vicinanze. Con oltre 10.000 truppe statunitensi già schierate, l'amministrazione Trump sta ora prendendo in considerazione uno schieramento ancora più ampio, ancora una volta mirato a contrastare l'Iran e potenzialmente più che raddoppiando la presenza americana. Il nuovo piano includerebbe dozzine di navi da guerra statunitensi, militare sostanziale, più di non è chiaro dove possano essere inviate queste truppe, ma l'Iraq sta già dicendo che non ne vogliono più, l'Arabia Saudita probabilmente ne prenderebbe alcune. Ogni nuovo schieramento non fa che aumentare le tensioni e i funzionari del Pentagono, che parlano apertamente della possibilità che l'Iran attacchi la presenza militare americana nella regione, una presenza che rischia solo di aumentare la possibilità che scoppi una guerra. Libano, i parlamentari con il Movimento per il Futuro, guidato dall'ex premier Hariri, nomineranno l'uomo d'affari sunnita Samir Khadib come neo premier lunedì durante le consultazioni formali. Il posto deve andare a un sunnita, secondo il sistema di governo settario libanese. Khadib dovrà affrontare la peggiore crisi economica dalla guerra civile 1975-90. Dopo essere riuscita ad attraversare la recinzione tra Gaza e Israele, Emad Khalil Abrim Shanin, 17 anni, i suoi amici si sono intrufolati in una caserma abbandonata e hanno acceso un fuoco, fuggendo poi dal posto per paura di essere visti dai soldati israeliani. Si sono nascosti dietro una duna e gli amici si sono accorti che Emad, che correva con le stampelle, non c'era. Era a terra, gli hanno urlato di gattonare, ma un soldato su un veicolo militare gli ha sparato una gamba e poi l'hanno preso e portato via. Da quel giorno ne sono passati 355 prima che Shanin tornasse a casa. È tornato il 23 ottobre scorso in un sacco per morti. Shanin era il più giovane di 9 figli, suo padre e un bidello. Tutti i fratelli e le sorelle partecipavano alle manifestazioni esplose nel marzo 2018 ogni venerdì alla recinzione, dove si chiede di revocare il blocco della striscia da 11 anni. La domanda che oggi si pone la famiglia e le ONG è perché i militari hanno trattenuto il corpo per tanto tempo e come sia morto un ragazzo dopo essere stato ferito alla gamba. Il giornalista palestinese Amjad Yaghi aveva solo 9 anni quando sua madre aveva lasciato la striscia di Gaza per un breve viaggio in Egitto per cure mediche, ma dopo aver lasciato Gaza nel 1999 la mamma, bloccata da un dolore alla schiena per il quale doveva curarsi, non è più riuscita a tornare a Gaza. Lui, mentre cresceva, ha tentato 14 volte di andare dalla madre, ma Israele e l'Egitto, che dal 2007, quando Hamas ha vinto le elezioni, hanno imposto un blocco che include restrizioni di viaggio, viaggio non è riuscito a uscire. Sono trascorsi 20 anni. Poi lunedì ha ottenuto il permesso per andare in Giordania ed è corso in Egitto, a Banha, dove ha riabbracciato la mamma. È stato molto difficile quando sai che puoi morire in ogni momento senza aver mai realizzato i tuoi sogni, ha detto il ragazzo, e senza soprattutto aver rivisto tua madre. Yagi era rimasto ferito nel 2009. Ho solo 29 anni, ma ancora bisogno di mia madre. E l'Egitto sta tentando di strappare un cessato il fuoco tra Hamas e l'organizzazione politica e militante palestinese che controlla la striscia di Gaza e gli israeliani, un accordo, una tregua di 5 anni. La televisione israeliana ha parlato di progressi significativi, il quotidiano libanese Al-Akbar, considerato vicino ad Hamas, ha detto che il leader Haniyeh, il leader della jihad islamica Al-Nahal, si sono incontrati per coordinare un'intesa sulla rimozione del blocco egiziano-israeliano nella striscia di Gaza, introdotto da entrambi i paesi, a detta loro, per ostacolare l'attività terroristica proveniente dalla striscia. A Malta ci sono rischi per il rispetto dello Stato di diritto. Siamo arrivati con molte preoccupazioni e non ripartiamo rassicurati, ha detto l'europarlamentare Sophie In 't Veld, capo della missione di emergenza mandata sull'isola dopo gli incontri aperti ieri dal premier Muscat, criticato per aver deciso di restare in carica fino a gennaio dopo gli ultimi arresti e interrogatori per il caso della giornalista uccisa Daphne Galizia Caruana. Irlanda, una granata è stata lanciata contro una pattuglia della polizia locale a Belfast. Non ci sono stati feriti, ma è ora caccia all'uomo e si temono nuove tensioni. Francia, oggi giovedì nero di scioperi contro la riforma di pensioni di Macron. Milioni di dipendenti pubblici si fermeranno, 4.000 gli agenti schierati per paura del caos e della presenza di Black Bloc e gilet gialli. Germania ha annunciato l'espulsione di 2 diplomatici russi dopo che i procuratori che si occupano dell'inchiesta per l'uccisione di un ex comandante ceceno ribelle a Berlino hanno dichiarato che dietro c'è Mosca. Hans Goshvili è stato ucciso il 23 agosto scorso. Afghanistan, l'inviato americano Khalid Zad ha fatto una visita sorpresa a Kabul e tornerà in Qatar per riprendere i colloqui interrotti da Trump con i talebani. Dr. Tetsu Nakamura devoted his life to helping the people of Afghanistan. Ha dedicato la vita alla cura degli afghani, ma ieri per il dottor Nakamura è tutto finito e restiamo così in Afghanistan perché è stato ucciso un medico giapponese, Tetsu Nakamura, capo di un'organizzazione umanitaria, la Peace Medical Service, durante un attentato dove sono morte anche altre 5 persone, suo attista e le sue guardie del corpo nella provincia di Nangarhar. Aveva sostituito il suo predecessore nel 2008 dopo che era stato rapito e ucciso. Samoa, le strade principali dell'isola sono deserte oggi, mentre il governo ha intensificato gli sforzi per contenere un'epidemia di morbillo che ha già ucciso 62 persone. Il governo ha detto ai lavoratori pubblici e privati di rimanere a casa oggi e domani e di chiudere le strade e veicoli non essenziali, mentre i team hanno iniziato ad andare porta a porta per somministrare i vaccini. Alle famiglie della nazione delle isole del Pacifico è stato chiesto di appendere bandiere rosse alle loro case se hanno bisogno di essere vaccinati. La maggior parte di coloro che sono morti a causa del virus sono molto giovani, 54 decessi tra bambini di età pari o inferiore ai 4 anni. Il quotidiano Samoa Observer ha osservato che la capitale normalmente vivace, Apia, oggi è una città fantasma. Alcune delle nostre persone visitano i guaritori tradizionali pensando che il morbillo sia una tipica malattia tropicale, cosa che non è, ha detto il primo ministro. Le autorità samoane ritengono che il virus sia stato diffuso da un viaggiatore della Nuova Zelanda. La nazione ha dichiarato un'emergenza nazionale il mese scorso e ha imposto la vaccinazione a tutte le 200.000 persone dell'isola. Il governo ha anche chiuso le scuole e bandito i bambini da incontri pubblici. Secondo il governo, oltre 4.000 persone hanno contratto la malattia dall'inizio dell'epidemia e 172 persone sono ricoverate in ospedale, tra cui 19 bambini in condizioni critiche. E concludiamo con un progetto di mappatura del genoma in tutta l'Asia che ha scoperto almeno 10 lignaggi ancestrali all'interno dell'Asia, rivelando una grande diversità genetica che supera di gran lunga le aree come l'Europa settentrionale, che ha solo un singolo lignaggio ancestrale che risale a un antenato comune. Questo studio offre la più ampia copertura della diversità genetica in Asia, dove è stato analizzato il DNA di 1739 persone in 64 paesi diversi. L'articolo è stato pubblicato sulla rivista di ricerca Nature. Oggi gli asiatici rappresentano oltre il 40% della popolazione mondiale, ma solo il 6% delle sequenze di genoma registrate nel mondo provenivano dagli asiatici prima di questo studio. Un genoma è la somma totale del DNA di un organismo. Lo studio è stato condotto da Genoma Asia 100K, un consorzio no profit lanciato nel 2016. Il consorzio mira a sequenziare 100.000 genomi di persone che vivono in Asia. Se vi interessa, troverete il link dello studio sul nostro sito. E da parte nostra anche per oggi è tutto. Grazie di essere stati con noi. Appuntamento domani con Africa e Europa e la nostra Paola Mirenda. Shooting down. Finsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Buongiorno a tutti cari radioascoltatori. Quest'oggi cercheremo di approfondire il tema della disabilità, dato che qualche giorno fa, il 3 dicembre, è stata la giornata internazionale delle persone con disabilità. Molte parole sono state usate nel corso degli anni per definire e per parlare delle persone con disabilità, per cui oggi cercheremo un po' di addentrarci in questi termini, di capirne il loro significato un po' più profondo, di capire come si sono evoluti nel corso del tempo e perché a volte magari sono stati accantonati e sostituiti da espressioni nuove più adatte a parlare di questi argomenti. Diciamo che i termini, tra virgolette, più comuni che sono stati usati nel corso degli anni sono stati all'inizio anticappato, poi è venuta fuori l'espressione diversamente abile, che è stata fortunatamente sostituita con disabile per arrivare poi alla locuzione più corretta al giorno d'oggi, persona con disabilità. Per cui cominciamo da handicap. Il Treccani dice che handicap è la condizione di svantaggio di una persona rispetto ai propri simili per disagi fisici o mentali. L'handicap limita o impedisce la possibilità di una persona di svolgere una vita normale per la sua età, il sesso, il suo ambiente socioculturale, e per questo nel tempo si sono intensificati gli interventi per migliorare le condizioni di salute del portatore di handicap, ma anche per determinare cambiamenti nell'ambiente di vita individuale e collettivo. Attualmente il termine handicap si preferisce la parola disabilità, che mette in evidenza il fatto che lo svantaggio non è una caratteristica della persona, ma un problema che nasce dalla relazione che si crea tra lo stato di salute di un determinato individuo e l'ambiente in cui vive. Per questo motivo la persona in situazione di handicap viene detta disabile, o meglio, persona con disabilità, essendo caduto in disuso il più limitante o anche offensivo termine anticappato. E ricordiamo anche che l'Organizzazione Mondiale della Sanità agli inizi del 2000 ha cancellato dai propri scritti il termine anticappato. Un'altra espressione che è nata e poi è stata accantonata è diversamente abile, che è un'espressione contestata in quanto un po' troppo politically correct, che vuole sottolineare l'abilità invece della disabilità, e la parola diversamente già in sé evidenzia una discriminazione un po' troppo paternalistica, per cui viene preferito il termine disabile. Giampiero Griffo, che è membro dell'esecutivo mondiale dell'organizzazione Disabled People International, afferma che utilizzare termini buonisti come diversabile o diversamente abile cancella la condizione di discriminazione e mancanza di pari opportunità. È dunque preferibile utilizzare la locuzione persona con disabilità, che è utilizzata dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità dell'ONU. Per cui riguardo a questo andiamo a vedere cosa dice il dizionario della parola disabilità. La disabilità è la condizione di coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri. Tale definizione si basa sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006. Diversi modelli di disabilità sono stati definiti in passato. Il modello medico, che è stato a lungo predominante, si concentra sulla menomazione dell'individuo, mentre quello sociale sottolinea le difficoltà legate all'ambiente fisico e sociale e derivanti da pregiudizi o restrizioni nelle opportunità scolastiche e lavorative. In questo senso anche non saper nuotare può essere considerata una disabilità nel momento in cui ci si interfaccia con l'ambiente acquatico. Così anche la miopia può essere considerata una disabilità nel momento in cui ci ostacola nell'interazione con il contesto rispetto a chi ci vede bene. Anche se al giorno d'oggi la tecnologia ci viene in aiuto permettendoci di colmare questi deficit grazie agli occhiali o alle operazioni con il laser. E a proposito di questo, l'ultimo argomento di oggi è quello sulle barriere architettoniche, che vengono definite come ostacoli fisici, gradini, scale, porte o varchi, che sono presenti nelle strutture edilizie, pubbliche e private, e che impediscono o rendono difficoltosa l'accessibilità e la frequentazione alle persone con disabilità motorie. La loro eliminazione è stata disposta per le opere pubbliche nel decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile del 1978 e per gli edifici privati dalla legge del 9 gennaio dell'89, ed essendo passati molti anni, al giorno d'oggi, in teoria non dovrebbero più esservene, anche se le vediamo tutti i giorni ancora nelle nostre città. Questa puntata del Pinzimonio è solo un piccolo approfondimento che cerca di far capire un pochino come sono stati considerati questi termini e come sarebbe opportuno usarli più o meno correttamente, e evidentemente per un tema del genere qualche minuto non basta. Per cui un invito ad approfondire queste argomentazioni è sempre valido e si propone agli ascoltatori, perché è un tema su cui penso ci sia ancora diverso lavoro da fare. Un saluto agli ascoltatori e alla settimana prossima sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1. Buon proseguimento con la rassegna stampa. Ascolta il Pinzimonio su Radio Città Fujiko oppure in podcast sulla pagina Facebook Il Pinzimonio Radiofonico. La base di oggi è gentilmente offerta da Fulvio della Ragù Records, che si scrive con due O e che potete trovare su Facebook, Bandcamp e SoundCloud. Il Pinzimonio è curato e condotto da Maurizio Casertano. Le definizioni delle parole proposte in questo programma sono tratte direttamente dal sito dell'Enciclopedia Trecani, per gentile concessione dell'editore. È vietata qualsiasi riproduzione e utilizzazione di carattere non strettamente personale. Grazie e buona giornata. Il Pinzimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Segna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. 9:31 minuti, dunque Radio Zanardi entra nella pagina dei giornali con la sua rassegna stampa e andiamo subito a Madrid per vedere, per avere una conferma. Nulla di buono, si dice il manifesto, perché da COP25 i dati allarmanti dell'emergenza climatica. Il clima non è buono, per l'appunto. Le vittime collaterali di 12.000 eventi estremi. Ogni anno si registrano sempre più eventi climatici estremi, di tropicalizzazione del clima, diremo in Italia, perché l'Italia risulta essere tra i paesi più colpiti nel mondo e che paga poi il numero di vittime maggiori, anche se non ho ben capito come sia il rapporto tra l'Italia e l'India, che insomma lo spiega Pelé, perché ovviamente l'India è un continente, l'Italia è piccola, forse hanno fatto una percentuale sul territorio, non so, vedremo. Pelé ne sa più di me, che è qui al mio fianco, lo saluto, ciao Pelé. Ciao Alfredo. Ma in realtà, al di là dei saluti, nel 2018 i paesi globalmente più colpiti sono stati Giappone e Germania, ondate di calore e siccità, Filippine con cicloni, seguono Madagascar, India, Sri Lanka, Kenya, Ruanda, Canada, Fiji. L'India è la prima per numero di vittime, oltre 2.000, e per perdite economiche. Nel decennio tra il 99 e il 2018, Long Term Climate Risk Index, i 10 paesi globalmente più danneggiati sono stati, dai eventi estremi, Puerto Rico, Myanmar, Haiti, Filippine, Pakistan, Vietnam, Bangladesh, Thailandia, Nepal e Repubblica Dominicana. dominicana. E poi l'Italia, nell'arco di due decenni, con la creatura al sesto posto e al 18° quanto a perdite economiche. Questo è un dato che comunque percentuale, parametrato, quant'altro, la dice comunque la gravità della situazione. Ma la gravità viene ribadita anche dall'intervista che il Fatto Quotidiano da Luca Mercalli, meteorologo più che noto perché spesso fa comparsate televisive. Ormai è tardi, sfida poveri ricchi per le regioni con un clima sano. Chi accetterà di lavorare all'aria aperta senza condizionatore, solo i disperati, gli schiavi dei prossimi decenni. Quindi un scenario un po' da Blade Runner o da altri film catastrofisti che abbiamo visto nel corso di questi decenni. Dottor Mercalli, siamo ancora in tempo? Per il clima. Il processo ormai è irreversibile, cioè siamo già fregati. Se arriviamo allo zero netto di emissioni entro il 2050, come ha chiesto la Commissione dell'Unione Europea, possiamo evitare la catastrofe. Ma anche se riuscissimo a mantenere il riscaldamento globale sotto i 2 gradi, vedremo comunque effetti molto pesanti nei prossimi decenni. Per esempio l'immigrazione, avremo una fuga di massa dai paesi caldi dove vivere sarà diventato impossibile. E qui c'è Salvini che si frega le mani. Migranti, voti. Ma andiamo avanti. Al contrario, ci saranno isole per ricchi, zone con temperature ancora accettabili dove si farà gara per stabilirsi. In Italia, ad esempio, immagino una fuga dalle grandi città verso i borghi dell'Appennino e poi nuove forme di sfruttamento con i privilegiati che lavoreranno in ufficio, se la caveranno con i condizionatori, ma chi accetterà di lavorare all'aria aperta per l'appunto, e saranno i disperati, chi non può permettersi altro, saranno gli schiavi del prossimo futuro. Buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori, continuiamo con le pagine della stampa a parlare di ambiente, di clima, di COP25 e di Madrid e l'apertura della conferenza mondiale delle Nazioni Unite sul clima di Madrid. Ci sono 197 delegati e apre la conferenza Antonio Guterres dei lavori con lo slogan agire ora, perché l'emergenza climatica è incombente. Il fenomeno di cui accennava Alfredo prima riguarda un'indagine svolta da German Watch che denuncia l'effetto di tempesta, inondazione, caldo torrido con danni alle economie dei vari paesi colpiti e addirittura con percentuali del PIL che sfiorano il 2%, e l'Italia è il sesto peggiore paese del mondo nella classifica per numero di vittime nei decenni 1999-2018. Prima di noi c'è la Cina, che è un paese enorme, l'India, che è un paese enorme, ma noi non ci facciamo mancare niente. C'è una fotonotizia che prende 2 pagine addirittura nel giornale della stampa. Con l'alluvione del 2018 di Vernazza nelle Cinque Terre, nello Spezzino, i danni furono valutati in un miliardo e mezzo. E c'è un dossier sempre sulla stampa di Davide Lessi e Andrea Rossi dove si è notato che si spende più in emergenza che in prevenzione. Inattuate le 350 azioni previste dal documento ministeriale del 2017, realizziamo opere per difenderci da quel che è accaduto nel passato, non da ciò che avverrà. Attraverso permessi e condoni si è riuscito a edificare anche in aree esposte al pericolo di inondazioni, e ci sono 5.000 chilometri quadrati a rischio in Italia che possono finire sott'acqua entro il 2100, 16,6% la percentuale di territorio ad alta pericolosità per frane e alluvioni. E al vertice di Madrid COP25 sono arrivati proprio tutti, ma nessuno parla dell'altro vertice sul clima che si svolge a Napoli nello stesso periodo, che si chiama COP21 Med e riguarda i 21 paesi che si affacciano sul Mediterraneo e riguarda per l'appunto l'aumento della temperatura del nostro mare interno. Continuiamo con le spiegazioni, gli approfondimenti sul clima e passiamo a un'intervista che è riportata a pagina 15 del leader dei Verdi europei tedesca Ska Keller, 38 anni, viene intervistata da Tonia Mastrabuoni. Tonia Mastrabuoni, scusate, si chiede se la conferenza sul clima in corso a Madrid e quali sono le urgenze maggiori per i verdi europei, e lei risponde che tutti gli stati che si rendano conto che è grave la situazione, che adeguino i loro piani nazionali sulla riduzione di CO2 in base a quest'urgenza. Nessun paese europeo ha presentato un programma all'altezza degli obiettivi degli accordi di Parigi del 2015, sono tutti debolissimi, eppure l'Unione Europea dovrebbe dare il buon esempio. Le misure pensate finora appunto dalla Commissione sono insufficienti, insiste, e gli stati si rendano conto di quanto è grave la situazione. Greta Thunberg, l'ultima domanda che gli fanno a Greta Thunberg e i ragazzi di Friday for Future, sono fenomeni globali, quanto stanno modificando la coscienza collettiva e quanto aiutano i verdi? Penso che ci troviamo, risponde, dinanzi a una svolta epocale dove come verdi ci occupiamo da 30 anni dei cambiamenti climatici, ma i Friday for Future hanno ulteriormente sensibilizzato le coscienze, proprio perché sono giovani che interagiscono con i genitori a casa, che ne parlano a scuola, che sostengono la situazione, che non va bene. Per loro si tratta di una minaccia esistenziale, anche loro genitori la vedono così. Queste erano le notizie. Ancora una piccola cosa sull'ambiente, la ritroviamo sul Carlino e ci fa capire sull'ambiente e la salute delle persone. Ci fa, c'è un Marco Buticchi che ci parla di dipendenza tecnologica e ci dice a chiare lettere che lo smartphone uccide la memoria. Chissà da quanto tempo sul candido marmo di un monumento troneggerà la scritta "Popolo di santi, eroi, poeti, navigatori e telefonomani". Questo è il nuovo slogan. Siamo drogati da cellulari fin da bambini, i giovani lo usano anche 10 ore al giorno. Lo smart uccide la memoria, proprio qui sta il primo paradosso. Sui fatti, come siamo all'uso di strumenti, un telefonino ad esempio, atti a conservare memoria, abbiamo confuso memoria sociale con il nostro profilo social. Questo è brutto sinonimo di una perniciosa malattia. Barattare accadimenti con la chimera di un selfie di un tempo invita a ripetere senza pensarci troppo gli errori del passato. Il nostro passato è talmente pieno di castronerie che sarebbe meglio ricordare tutto che cancellare ciò. È molto scomodo. Giusto? Ah, scusa, ero distratto, stavo facendo un messaggino. Ma no, tu citavi l'iniziativa di Napoli, ne parla anche Adriana Pollice dal Manifesto. Pronta la carta di Napoli per tutelare il Mediterraneo. Oggi la firma dei paesi della COP21. Perché è previsto proprio per oggi questa firma di questa carta di Napoli, documento che indicherà la strada da seguire per la tutela del Mediterraneo da parte dei 21 paesi distribuiti in Europa, Africa e Medio Oriente, più l'Unione Europea, che aderiscono alla Convenzione ONU di Barcellona, riuniti in questa città per la COP21 a Napoli. Si tratta dell'atto che sancisce l'inizio della presidenza italiana per i prossimi 2 anni. Ieri c'è stato un incontro interministeriale decisivo per fissare l'asticella degli obiettivi da raggiungere. Dobbiamo proteggere il Mediterraneo dall'inquinamento e rendere sostenibili le attività economiche dei popoli che ci rivieranno. Raschi, dice anche il ministro dell'ambiente italiano Costa, ma speriamo che si riveli reale, non solo una firma. Nel frattempo il giornale fa della questione della salute, in questo caso della sanità e del cosa mangiamo, un problema di nazionalismo, perché così tutto diventa sovranista in queste. Il documento segreto, il cibo italiano fa male, altro euroschiaffo, così il sistema semaforo punirà formaggi e salumi. Naturalmente non ci si preoccupa se sono formaggi e salumi a posto oppure c'è un problema, si parla appunto di Bruxelles, la casta, cioè bla bla bla bla. L'Europa vuole etichettare, che vuole etichette che promuovono la Coca-Cola e bocciano insaccati e formaggi, quindi questo è come si tratta, viene utilizzato la questione della salute, del clima, quant'altro. Nel frattempo l'extraterrestre, non a caso, ci parla di una sardina tira l'altra, e qui forse non è casuale del tutto. I pesci simbolo della protesta autunnale italiana vengono dalla Sardegna, da cui prendono il nome, si muovono in banchi e vivono in gruppi per difendersi dai predatori. Come le alici, rappresentano il 40% del pescato mondiale, in gran parte utilizzato come mangime per allevamenti di suini. A causa della pesca strascica industriale negli ultimi 20 anni si è dimezzata la popolazione della specie, un sistema distruttivo per l'intero ecosistema marino. Questo è quello che racconta l'extraterrestre. Ma di sardine invece in chiave politica parla anche il Manifesto. Le sardine tornano in Puglia con un messaggio ai politici. Dopo Taranto, in piazza Bari, Foggia, dicono in Puglia, schierati ma con le nostre idee. Perché sabato a Bari sono previsti interventi in questa sardinata pugliese, ma non a microfono aperto perché sarebbe ingestibile, non sarà un vero e proprio palco. Su Facebook stanno già raccogliendo le proposte per temi da lanciare in piazza, da ricordo dello sbarco degli albanesi con la quinta all'ora negli anni 90 alla difesa dei diritti dei disabili. Non ci sarà una scaletta e non è previsto l'intervento di esponenti politici, giornalisti o intellettuali della città. Dicono gli organizzatori, che sono altri quattro ragazzi: noi vogliamo che la piazza esprima un dissenso collettivo contro le misure prese da tutta l'attuale classe dirigente, dichiarano gli organizzatori. Non è un riferimento casuale, in Puglia già da mesi si è in campagna elettorale in vista delle elezioni del 2020. Se i partiti politici pugliesi stanno pensando a drenare voti dal movimento, sbagliano. Noi siamo schierati ma con le nostre idee, sappiamo cosa vogliamo dalla politica, così avvertono. C'è ogni giorno Contropiani invece fa un articolo contro le sardine, mostrando la sua chiara ostilità a questo movimento. Questa volta Contropiano, giornale comunista online, dà voce al centro popolare autogestito Firenze Sud, che su Piazza della Repubblica la bandiera rossa è altro. Questo è fatta allontanare da una bandiera rossa con falce e martello dalla piazza di Sardine a Firenze, perché l'hanno portata, c'era la richiesta di non portare bandiere o altro, l'hanno portata chiaramente per forzare la mano, e adesso naturalmente cantano vittimismo e dicono ecco siete tutti di destra. Questo è un meccanismo abbastanza, quello del prendere la testa del corteo e poi lamentarsi, abbastanza consolidato. Ma lasciamo perdere le sardine e varie e veniamo invece alla NATO, perché succede che la NATO vede tutti in dissenso, ma tranne che un accordo sono tutti d'accordo: aumentare le spese militari. E a me continua, non dico a stupire perché ormai ne ho viste passare di cose dei miei ponti personali, ma continua a fare specie il fatto che mentre si litiga se il MES, non il MES, il piano di stabilità, non di stabilità, se troviamo i fondi per investire oppure non ce ne sono abbastanza, tranquillamente compriamo degli F-35 e aumentiamo le spese militari. Quelle proprio non c'è nessuna forza politica che protesti. Questa cosa io non me ne capacito, sono un bambino, un ingenuo, un naif, un illuso, ma non me ne capacito. L'alieno atlantico, vertice NATO diviso tranne sull'aumento degli armamenti. Leonardo Clausi, sotto la retorica dei tutti per uno, l'appuntamento londinese evidenzia fratture, anche perché si è, in particolare su Erdogan, l'invasione della Siria, l'attacco ai curdi, lo scontro tra Macron e Trump. Il presidente nordamericano cancella la conferenza stampa. Quando Trump cancella la conferenza stampa, vuol dire che va via incazzato. Questo è ormai. Ma a proposito di sulle spese militari, tutti d'accordo. Abbiamo prima il fatto del quotidiano su questo summit: i moschettieri della NATO più miliardi per la difesa, ma nessuna concordia. Quindi sappiate che se vi tolgono soldi alla pensione, dalle scuole o dalla sanità, è perché li mettiamo per la NATO. È meglio dirlo, che si sappia. È una scena clou a Londra: Macron, Trudeau, Johnson e Rutte ridacchiano di Trump, che si offende e critica gli altri leader dell'alleanza, disertando la conferenza finale. Effettivamente è difficile non guardare Trump senza mettersi a ridere, è pericoloso, ma è difficile trattenere le risate. Ma sempre sul fatto della le spese militari non si toccano, anzi si aumentano, la rabbia pacifista è sempre commentata dal manifesto di Giulio Marcon, che fa parte del comitato sbilanciamoci, quelli che ogni novembre fa un contropiano finanziario per il paese. La brutta pagina di F-35, altri 90 ne abbiamo ordinato, non 90, Conte ascolta la Lega e non già il Papa. Il Papa ha detto chiunque non solo usi ma detenga armi di massa è un peccatore. E beh, allora avanti, tutti lanciano la pietra perché nessuno è senza peccato. Dunque NATO, divisioni, sorrisi, Conte davanti a Trump difende il 5G cinese. Questo è invece il vertice raccontato da Luigi Ippolito. Il presidente nordamericano cancella la conferenza stampa col nodo di Putin, perché il vertice è appunto spendiamo, tanto paga pantalone, cioè chi lavora, cioè non quelli che, non i parassiti della finanza, ma chi lavora, i lavoratori. Più difese per i paesi baltici, quindi euro, missili e altro quant'altro. Nasce il comitato degli esperti, perché naturalmente sotto l'ombrello NATO ce n'è per tutti, no? Cioè, non si nega niente a nessuno, anche qualche esperto di armi, che sarà sicuramente qualche lobbista delle fabbriche. Ma vediamo invece Conte, Trump, l'intesa tra i due cari amici, perché sappiamo che Trump ha benedetto l'ultimo mandato di Conte presidenziale, ma il silenzio su web tax e dazi, perché Trump ha detto se mettete la web tax alle mie aziende americane, io metto i dazi alle vostre, tanto per non fare dei ricatti. Resoconti divergenti, poi l'accordo. Roma chiede aiuto politico sulla Libia. Questo è quello che racconta il Corriere della Sera. Ed è in un clima surreale, da paradosso, che a Londra effettivamente si celebrano i 70 anni della NATO, e tra una figuraccia e l'altra di Trump, prima con Macron, dove bacchetta l'Europa e chiede più spese per gli armamenti, e Macron gli risponde: veramente noi le spese le stiamo riscattando con i morti in guerra, e soprattutto bacchettiamo la NATO e la Turchia per aver aggredito inesorabilmente i curdi e avere massacrato i curdi, quando i curdi sono il popolo che ha combattuto l'ISIS. Dopodiché nel giorno successivo si sono presi beffa di Trump anche Justin Trudeau, presidente del Canada, e altri, e c'è un video che ha fatto infuriare Trump, per l'appunto, dove c'è Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Boris Johnson, il premier olandese Mark Rutte, colti in flagrante a Buckingham Palace mentre ridono del presidente americano. E tant'è, come diceva Alfredo, che ha piegato i tovaglioli e se n'è andato prima della fine. E c'è un qui por quo tra un gossip, io ho detto e non ho detto, sempre dalla pagina 3 della Stampa, un retroscena di Ilario Lombardo e Paolo Mastrolilli, dove ci sono Twitter dove Trump afferma di avere parlato di 5G e di rassicurazioni, e ci sono affermazioni da parte del nostro premier Conte dove nega completamente le cose. Fra le altre cose, appunto, nella guerra dei dazi e del fatto che l'America ha approvato quel movimento democratico che è nato a Hong Kong, dei giovani studenti, è stata approvata una mozione bipartisan che stabilisce che la Cina di Xi Jinping va sorvegliata e punita per le misure contro gli Uiguri, che è quella popolazione deportata nel nord della Cina, dove non ci sono diritti umani, e violenza, lotta al terrorismo, al separatismo, e questa è da parte, appunto, da parte del governo americano. E ancora stesse notizie le ritroviamo a pagina 12 e 13 per quello che riguarda le pagine di Repubblica, e nel documento finale si parla anche, appunto, di Russia e di Cina, che sono paesi da tenere sotto controllo. Tutti siamo convinti che Trudeau, Trump, Macron e Conte non ci dormono la notte per il popolo uiguri. È la prima loro preoccupazione. Sotto Natale poi gli uiguri sono d'obbligo in qualche modo. Comunque, veniamo allora con tutta la solidarietà al popolo uiguri, ma quello vero, non quello dei trattati. Ma detto questo, su questa NATO, critica su tutto, ma non sulle armi, bensì il commento di Maurizio Simoncelli dell'archivio Disarmo. Sentiamo le sue parole. Ha 70 anni e li dimostra, effettivamente, nel senso che era un'alleanza militare sorta nel periodo della guerra fredda con lo scopo di evitare una possibile invasione verso occidente dell'Armata Rossa. Ovviamente l'epoca storica è cambiata, l'invasione dell'Armata Rossa non esiste più la minaccia comunista, così come era stata prefigurata 70 anni fa, e ci si trova di fronte a un mondo multipolare in cui in realtà il confronto non è tanto tra Occidente e Russia, erede dell'Unione Sovietica, ma in realtà ci troviamo di fronte a una sfida globale che da un lato comprende la Cina, che è la nuova potenza emergente e quindi grande competitor degli Stati Uniti, e dall'altro lato poi in realtà una situazione molto più complessa in cui anche altri paesi emergenti pongono delle sfide diverse anche dal punto di vista geopolitico. Pensiamo solamente all'instabilità del Medio Oriente, anche alle risorse energetiche del Medio Oriente. Il dato di fatto è che comunque rimane la NATO l'unica alleanza militare internazionale che è in grado di spendere annualmente qualche cosa come 963 miliardi di dollari, a fronte dei 61 che spende la Russia e dei 200 150 che spende la Cina, insomma, in ambito militare. Quindi trovarsi di fronte a un incontro internazionale in cui si riafferma la necessità di aumentare le spese militari per far fronte alle nuove minacce, non si capisce bene quali sono queste nuove minacce, a meno che non parliamo dei cambiamenti climatici, ma che quelli non possono essere certo combattuti né con le portaerei né con i missili intercontinentali o con le armi nucleari. Quindi, questa era l'idea di Trump, no? Di attaccare i cicloni con delle armi. Sì, la battuta è molto comica, effettivamente degna di un grande comico, però insomma stiamo parlando invece di cose molto serie e ci dobbiamo rendere conto che la vera sfida oggi come oggi è quella del cambiamento climatico. Se le Nazioni Unite ripetono attraverso i loro esperti, che sono certamente non di parte, ci dicono che è una minaccia sempre più incombente, si parla che fra 20-30 anni ci saranno alcuni miliardi di persone che non avranno accesso all'acqua e quindi questo comporterà dei spostamenti di popolazione, cioè migrazioni non dei 10.000 o dei 20.000 a cui siamo sottoposti oggi nell'area del Mediterraneo, che sembrano allarmare l'Europa, ma stiamo parlando di miliardi di persone, nell'ipotesi migliore circa 2 miliardi di persone si muoveranno. Quindi sembra ancora di leggere nella narrativa della NATO e di questi incontri, di leggere ancora un film della prima guerra fredda, quando poi anche all'interno della NATO poi in realtà ci sono delle posizioni molto differenti, anche forti tensioni. Vediamo l'atteggiamento di Trump, che minaccia al momento in cui va a un incontro con gli alleati, li minaccia di una guerra commerciale che è già in atto, ma addirittura di rinfocolarla. Vediamo il presidente Macron che parla di morte cerebrale della NATO, la quale effettivamente non riesce a essere coerente quantomeno con le sue postazioni, che sono quelle di sostegno alla democrazia e quant'altro. Vediamo che non si è mossa rispetto a quello che è successo in un partner importante come la Turchia, non si è mossa nella vicenda del Kurdistan siriano e in tante altre occasioni. Quindi effettivamente sembra di assistere a un'organizzazione che prosegue la sua vita per forza di inerzia, ma che non è in grado di rappresentare effettivamente una linea politica condivisa a livello internazionale. Visto questo anacronismo oramai che presenta la NATO in una direzione che guardi alla pace e non alla guerra, quindi cosa sarebbe meglio fare? Sarebbe meglio chiuderla? Questo ovviamente è un dibattito che noi possiamo fare, chiuderla o meno, è un dibattito che va avanti da anni, dal momento in cui è stata costituita. Molti criticarono la costituzione di questa alleanza militare proprio perché veniva in realtà a depotenziare le Nazioni Unite. Oggi come oggi noi ci troviamo comunque di fronte a un organismo che, così come è strutturato, non serve effettivamente agli scopi dichiarati. Probabilmente serve più che altro una posizione di leader degli Stati Uniti, che vuole da parte degli alleati un appoggio politico, militare e anche economico nell'ambito dell'industria. Non dimentichiamo il caso degli F-35, l'aereo cacciabombardiere più costoso della storia dell'aeronautica, che gli Stati Uniti di fatto hanno richiesto agli alleati un impegno in tal senso, e molti di questi alleati si sono appunto attivati per dare un contributo che altrimenti la stessa megapotenza degli Stati Uniti non sarebbero riusciti a realizzare questo progetto costosissimo. Ad oggi parlare di sopravvivenza o meno di questa organizzazione credo che sia oggetto quantomeno di doveroso dibattito politico, che ad oggi non vedo in Italia. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. Veniamo al mondo del lavoro, col manifesto che apre con Riserva Indiana. ArcelorMittal detta le condizioni per restare a Taranto. 4.700 esuberi entro il 2023, più della metà dal prossimo anno. I sindacati, un piano che è irricevibile. Il 10 dicembre sciopero Patuanelli, il ministro deluso dalla multinazionale. Entro lunedì il piano alternativo del governo, che viene descritto dal governo, dal manifesto. Dunque l'amministratore delegato Morselli annuncia tagli al Mise, racconta poi Massimo Franchi, sempre da manifesto. manifesto, uccisione di civili inaccettabile, e questo è il tema che poi vede anche altri giornali, più la Gazzetta del Mezzogiorno, ed è tutto interessata alla situazione meridionale del lavoro, parla della Mittal, la mannaia di Natale. La notizia fa il punto, ricordo un po' i passaggi di questa vicenda, macelleria indiana. Lo scudo penale era l'alibi per cacciare 4.700 operai dall'Ilva. Questa appunto si era detto fin dall'inizio, ma c'è la conferma. Il Corriere della Sera, il piano Ilva spiazza il governo. ArcelorMittal chiede questi 4.700 esuberi. Patuanelli chiede un passo indietro. Mentre la Melucci, sindaco di Taranto, non ne ha per tutti. Una catastrofe annunciata, Taranto basta passerelle. Melucci, anche il PD, il mio partito, avrebbe potuto fare di più. Sì, Lucia Morselli, AD di ArcelorMittal, ha scoperto le carte. 4.700 sono le uscite, che però si sommano a quelle già decise, e quindi la stampa a pagina 5 parla di 6.300 totali che sono gli esuberi previsti. E i sindacati, impossibile discuterne, ci si sta preparando al sciopero e manifestazione nazionale di martedì 10 a Roma. Dura meno di un'ora l'incontro convocato dal Ministero dello Sviluppo per sbrogliare la matassa della vertenza sulla ex Ilva, ci dice Maria Rosa Tomasello appunto in questo articolo sulla stampa. Nemmeno il tempo di sedersi al tavolo, il progetto presentato dall'amministratore delegato Lucia Morselli appunto mette fine alla riunione e le speranze del ministro Stefano Patuanelli e provoca la reazione furiosa dei sindacati. Un piano industriale di ArcelorMittal è irricevibile, i 6.300 esuberi ipotizzati non possono neanche essere presi in considerazione, accusano FIOM, FIM, WILM. Per noi vale l'accordo del 6 settembre 2018, è valido e vincolante, dichiarano, annunciando 24 ore di sciopero per l'appunto. E ancora notizia, la riprendiamo sui giornale della Repubblica, che ci parla appunto di Ilva. E c'è appunto questo titolone con questo numerone 4.700 esuberi che capeggia già dalla prima pagina, e appunto e poi a pagina 7 di Repubblica c'è un'intervista a Teresa Bellanova, ministro dell'agricoltura, che ci dice che le aziende devono mettersi di fronte alle loro responsabilità. Come sottosegretaria al lavoro e vice ministra dello sviluppo è stata interpellata. Ancora sull'economia e sul lavoro ci sono altre aziende che sono in difficoltà, c'è Ampal Servizi, e cioè i formatori che sono precari, che hanno contribuito a formare i navigator, protestano. Ampal Servizi, rappresentati dal sindacato interno, tornano a protestare perché nonostante l'approvazione di un emendamento al decreto crisi, poi diventato legge, il presidente di Ampal, Mino Parisi, ne vuole stabilizzare solo una metà. Poi si parla appunto di più tasse sulle concessioni, gli sconti sulla plastica aziendale. E un'altra cosa che volevo segnalare è il punto di Stefano Folli, appunto nei commenti delle pagine di Repubblica, che parte appunto da 4.700 esuberi, ossia i lavoratori da lasciare a casa richiesti da questo nuovo piano Mittal per l'Ilva, confermano il sostanziale fallimento degli sforzi del governo. Certo, l'alto forno di Taranto non è stato spento e qualcuno si è seduto intorno a un tavolo per discutere, ma le condizioni poste dai franco-indiani in alternativa alla chiusura degli impianti sono e restano quelle iniziali, impongono un prezzo talmente alto che non si capisce in cosa sia consistito il compromesso di cui pure si è parlato. L'articolo si conclude dicendo che il PD potrebbe forse sentirsi rassicurato considerando le contraddizioni che ricadono tutte sull'alleato, i 5 Stelle per l'appunto. Invece anche i dati democratici sono insoddisfacenti, oscillando tra una faticosa stabilità e una lenta erosione. Entrambi i partner del governo hanno quindi i loro motivi per smetterla, si intende, dopo aver approvato la legge di bilancio. E allora parliamo del governo, che ha due grandi problemi. Il primo è questo: prescrizione, botto di Capodanno, sempre dal Manifesto prima pagina. Giustizia, Di Maio e Conte chiudono alle richieste del Partito Democratico la riforma in vigore dal 1° di gennaio. Questo racconta il Manifesto, che poi su queste disfide interne della maggioranza ritorna anche. Prescrizione contro scontro rinviato, la riforma entrerà in vigore. Questo è il quadro che vede il Fatto Quotidiano, che la mette giù abbastanza in modo volgare, devo dire. Zinga, Berlusconi, i due Matteo, reati prescritti, governo condannato, dace colpo di spugna dei soliti noti. E insaputismi, Marco Travaglio. Un misto di indignazione e ilarità ha accolto l'autodifesa di Anastasia Kimlik, la fidanzata di Luca Scacchi, assassinato il 23 ottobre a Roma. Davanti al GIP che lo interrogava sull'indagine a suo carico per spaccio di droga, la ragazza ha dichiarato in lacrime: non sapevo di avere 70.000 euro nello zaino. Ora è vero anche che ogni tanto il procuratore di Roma è di bocca buona, quando De Benedetti sconfidò il suo broker Volengo di aver saputo in anteprima dal premier Renzi che stava uscendo dal decreto banche e gli commissionò un investimento di sicuro di 5 milioni. PM riuscirono a indagare Bolengo e non l'ingegnere, che negava di aver detto ciò che aveva detto nel premier, cioè l'unico che non aveva fatto niente, anziché l'untore e il beneficiario della sua fiata. Ma queste sono fortune riservate ai potenti, non ai quidam de populo, cioè qui non alla fidanzata dell'assassinato Luca. Questo è l'amara, così, tridunion che fa travaglio tra la cronaca nera e la cronaca politica. L'altro corno, sappiamo, stop dell'Unione Europea, il MES non cambia, doccia fredda con centeno dell'Eurogruppo, negoziato chiuso verso l'invio al vertice di gennaio. Quello che si intuisce senza essere dentro i palazzi, le corde del palazzo, che tutti sapevano che è stato uno scambio, ci accettavamo la finanziaria, se noi accettavamo il MES, tutti sapevano, compreso Salvini e i suoi accoliti, che da un anno stavano al governo, e quindi la menzogna è collettiva. Comunque gli italiani, in sondaggio che da Pagnoncelli, stanno più con il Premier che con la Lega. E tutto, allora, il MES serve, non serve, è giusto o non giusto? Si risolve con un sondaggio. Vuoi sapere quanto ne sanno gli italiani di quanto cosa sia il MES, cioè nei suoi meccanismi anche complicati finanziari? Ma detto questo, l'importante è la pubblicità. Quindi, allora, come retroscena, qual è quello di Lorenzo Salvia, ma viene abbastanza condiviso da tanti? È questo: la firma con riserva l'ipotesi di Palazzo Chigi per uscire dall'angolo. Infatti il Manifesto scrive: accordo chiuso ma senza fretta sul MES. L'intesa con Gualtieri per mediare con gli altri paesi è un altro via, è un sì politico ma senza la sottoscrizione. Questo è quanto. Ma sempre sul governo, quello che succede: concessione, l'imposta sale al 3%, questa autostrada eccetera, dimezzata la tassa sulla plastica, che sembra fare arrabbiare moltissimi italiani, non ho ancora ben capito perché, ma insomma, gli emendamenti del governo alla manovra, slitta la stretta sulle auto aziendali. Sì, e sembra che per Repubblica la notizia numero uno del giorno sia che la maggioranza che è senza pace. Ci sono un sacco di punti dove il governo non trova un punto d'incontro. Il primo è la prescrizione, che dal 1° gennaio scatta il blocco. Il PD e Italia Viva chiedono garanzie sui tempi dei processi. Poi viene il MES, il fondo salva stati, senza modifiche e niente firma, dice Dima e Diba, che si sono coalizzati e che stanno facendo braccio di ferro con il PD di Zingaretti. E appunto il PD lancia una controproposta sulla prescrizione in tema appunto di giustizia. Gli esperti del partito studiano un compromesso che possa salvare la legge dei grillini, garantendo però tempi certi ai processi. E c'è anche una letterina, sembrerebbe quella di Babbo Natale, no, è quella di Nicola Zingaretti, segretario del PD, che dice: caro direttore, non possiamo sottovalutare in alcun modo il rischio che la maggioranza di governo possa fare distinguo, liti, sgambetti, si allontani sempre più dai bisogni e dalla voglia di riscatto del paese. Continuano a esplodere drammatiche crisi aziendali e dovremmo molto di più influenzare l'agenda politica. E ancora su queste notizie si esprime anche il Carlino, in particolare sulla giustizia. Di Maio va avanti, il PD tentato dalla rottura, e entra in campo anche Renzi, che avverte: stare al governo non è obbligatorio, ma nessuno ha paura delle urne. e dalle pagine della Stampa anche qui si parla di giustizia e c'è un'intervista a Giulia Bongiorno, la leghista, e dice che bisogna accelerare i processi, i 5 Stelle sono in ansia ma la legge è decisamente disastrosa, avere dei tempi di prescrizione corti, secondo appunto Giulia Bongiorno, potrebbe essere un incentivo, anzi per lei è un incentivo a far sì che i processi siano più rapidi. E ci sono ancora notizie sempre riguardo alla politica sul caso di Renzi e Open, la fondazione politica, e il prestito per la casa di Renzi è possibile frutto di riciclaggio. L'allarme di Banca Italia, nella segnalazione di operazione sospetta anche l'ipotesi di azione corruttiva, è da questo punto di vista che partono i magistrati per verificare i conti appunto di lui. E poi c'è Forti già Italia che si fa giovane, perché leggo: il forzista Sisto protesta suon di rap. Questo è il Corriere, conferma anche il Giornale, anche un rap per dire no all'ingiustizia infinita, perché Francesco Paolo Sisto, Forte Italia, si improvvisa rapper e dalla piccola ribalta oratoria sciorina un refrain. È durato troppo poco questo spirito garantista, la poltrona accetta in vista, muta anima e coscienza, eccezione di licenza, dici che fai tutto il contrario. Questo è, ci fa piacere che finalmente Forte Italia e Francesco Paolo Sisto, 64 anni, avvocato e docente, deputato di Forte Italia, si allinei per esempio con i Negro Without Attitude, i Negro Senza Attitudine, gruppo di superstelle del rap newyorkese, dai Scube e altri, che cantano Fuck the Police. Anche Forte Italia, chi lo sa? Right about now, NWA court is in full effect. Judge Dre residing. In the case of NWA versus the police department, prosecuting attorneys are MC Ren, Ice Cube, and Easy motherfucking E. Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass? You goddamn right. Won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Fuck the police, coming straight from the underground. A young nigga got it bad, cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit, cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. And thrown in jail, we can go toe-to-toe in the middle of a cell. Fucking with me, cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product, thinking every nigga is selling narcotics. You'd rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a Benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape. Off the scene of the slaughter, still getting swole off bread and water. I don't know if they fags or what. Search a nigga down and grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun, they can't get none. But don't let it be a black and a white one, cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white cop. Ice Cube will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say. Fuck the police. Fuck the police. Fuck the police. Fuck the police. That will seem Fuck the Police, questo supergruppo appunto di rapper newyorkesi. Ma procediamo allora con la cronaca, perché così arriviamo in quel di Bibbiano. Il sindaco può tornare al lavoro, dice il Corriere. Il PD ora le scuse. Dopo la Cassazione Renzi attacca Lega e 5 Stelle. E lui, Carletti, questo sindaco, peraltro è imputato, ma ancora che nulla c'entra con le vicende dei minori, ma è stato messo dentro così. Trattato da orco, dai barbari del web, pronto a ripartire, dice. Mio figlio di 5 anni minacciato di morte, con tanti posti tipo secca rossa ti schiacceremo, e lui dirà no, rossa poi no, questo ve lo dico. Come, a parte questo, c'è la Borgonzoni, perché dice: la mia t-shirt la rivendico, il processo dirà che chi ha sbagliato, perché la Borgonzoni è furba, sa che il processo arriva dopo le elezioni emiliano romagnole, quindi comunque conclude, lei deve tenere alta la palla, perché come dice appunto la elezioni vicine in Emilia, questo è il giornale. La magistratura smorza lo scandalo di Bibbiano, quindi i magistrati rossi a fianco del centro-sinistra. Oppure, come il motivo qual è? Perché l'Emilia Romagna è secondo il viaggio nel voto di Antonello Caporale, la rossa Reggio teme Lucifero, Salvini vince grazie a Bibbiano, quindi guai a smontare Bibbiano, perché rischia Carletti libero, scintille su Bibbiano. Da Zingaretti a Bionaccini il PD festeggia, la Lega si scusi, ma Salvini scuse ai bambini, perché ricordiamo, questi di centrodestra sono i garantisti della prescrizione, questo è il loro garantismo, sui loro processi. Il sindaco del paese, simbolo, il caso sui affidi illeciti, torna in carico con la pronuncia della Cassazione. Sì, continuiamo su questo argomento con le pagine del Resto del Carlino, che apre con i miei 5 mesi di da orco. Andrea Carletti, 47 anni, sindaco PD di Bibbiano, arrestato il 27 giugno. Il sindaco di Bibbiano, in un'intervista, pagina 4 di Alessandra Codeluppi, ci fa sapere che finalmente è contento di tornare a guidare il comune di Bibbiano ed è stato un bersaglio. Chi mi ha attaccato così violentemente aveva tanti obiettivi, ma non sicuramente quello della verità. E c'è il dolore, il vedere ogni giorno attacchi indegni contro il mio paese è stata una sofferenza incredibile. C'è anche un'intervista a Zingaretti qui sul Carlino, dove si lamenta appunto che la Lega abbia sollevato solo fango, ma Salvini rilancia sui troppi silenzi. Il leader del Carroccio si cosparga il capo di cenere che ha coperto per anni questi scandali. Per i democratici la candidata del centrodestra in Emilia ha giocato con la vita di una persona e la cosa rimane spinosa, perché appunto siamo in clima elettorale. Le pagine di Repubblica riprendono ancora questa notizia e c'è una bella vignetta, pagina 8 di LK, e dice: sulla pelle dei bambini, da un lato c'è Salvini con rosario in mano che dice voglio la verità su Bibbiano, e poi dice che cavolo, dopo le regioni dell'Emilia Romagna intendevo, prima dobbiamo lasciare un po' di spazio a questi gossip incredibili. E ancora una cosa volevo segnalare, un articolo di fondo di Mattia Feltri sulla Stampa, dove paragona a questi perseguitati politici da parte delle opposizioni e ci mette dentro Andrea Carletti, ma dobbiamo parlare anche di Mimmo Lucano, accusato ingiustamente e poi scagionato per il solo scopo di inserire nel comune appunto dove Mimmo Lucano era sindaco l'opposizione. E l'articolo dice, parte con il sindaco di Bibbiano: e l'ultimo sacrificio è stato sulla pira della nostra demenza e della nostra barbarie. Dovessimo qui compilare l'elenco dei predecessori, sia colpevoli sia innocenti, occuperebbe pagine intere del giornale. L'innocenza e la colpevolezza non ci riguardano, ma sollevano un moto dell'anima, arriveranno in là quando saremo dietro le barricate di altre disgrazie e urgenze. Andrea Carletti, come i suoi predecessori, non ha nemmeno un nome, non ha un volto, non ha una vita, non ha una famiglia, non ha una dignità di essere umano. Naturalmente non bisogna essere dei primi Pulitzer per sapere di come impagini un giornale, dai anche non troppo implicitamente al lettore il senso della gravità degli argomenti affrontati. In prima pagina quelli più importanti, e per esempio pagina 14 del giornale, trafiletto, morti da maltempo, Italia sesta al mondo. Ne abbiamo aperto questa notizia perché la gerarchia dei valori e dell'importanza forse è diversa, ma invece il giornale dà molto più importanza che non la catastrofe ambientale e climatica a queste no vax, no, no chase, perché le mamme anticesseggiolini fanno male ai nostri bambini, che è un problema di quelli. Petizione contro nuova legge. Secondo le promotrici della raccolta firme, i sensori elettromagnetici mettono a rischio la salute dei bebè, come dall'ultimo articolo di Science, immagino, no? O di Nature. In Italia 8 bambini morti perché dimenticati in auto dai genitori. Questa è l'ultima campagna del giornale, importantissima evidentemente. Ma procediamo. Altra cosa decisiva, un pericolo che attanaglia la nostra città e che vede il prefetto Imprese in prima linea: guerra ai graffiti, perché non se ne possiamo più. Noi veramente non possiamo più girare la sera perché è colpa dei graffiti. Quindi il prefetto impresa, servono controlli più e più illuminazione, quindi magari un po' di NATO, compriamo un F-35 contro i graffiti. E i comitati, il carino pompa questa cosa perché siamo vicini alle elezioni, ci sentiamo avviliti, pattuglie in strada o basta pulizia, quindi militarizziamo la città contro i graffitari. Ma dice il prefetto impresa, sposa linea dura, perché quando non sposa linea dura il Carlino ha sempre porte aperte. Se invece sposasse la linea del dialogo, allora Amato sposa la linea dura, il procuratore Amato, la sporcizia porta un diffuso senso di insicurezza. Questa è bellissima, che la sporcizia porta, allora i graffiti diventano sporcizia, la sporcizia diventa un insicuro senso di sicurezza che percepita. Quindi scusi se allora sta piovendo, questo è il concetto del il malessere, gli imbrattamenti che deturpano la bellezza della città creano disagio tra i cittadini, naturalmente. E poi dalla prima Gimberto Dondi, reati piccoli, grande danno per la città. Naturalmente nessuno ha imbrattato il Nettuno o San Petronio, ma qualche muro della periferia, le bellezze della città, bla bla. Veniamo invece da questi grandi problemi seggiolini, graffiti a Bologna, veniamo a Franco Carraro nel suo 80° compleanno, ha un'idea. Un regalo, un'idea contro il razzismo, meno male, vediamo come si tratta. Ho una proposta per il calcio: al primo coro l'arbitro deve sospendere la partita, coro razzista ovviamente, a meno che tutti gli spettatori non si mettano a battere le mani, un gesto semplice che può risolvere. Beh, potrebbe essere un'idea per isolare appunto i nazisti allo stadio, ma i nazisti purtroppo non sono solo allo stadio. Allora il giornale dà addosso al figlio di Boldrini, ricordiamo i tagli d'oro della Resistenza eccetera, che non c'è più, non è più tra noi, c'è il figlio. Polemica sul saggio: il figlio del partigiano vuol censurare il libro che definisce il comandante Bulov un boia. Beh, credo che abbia ragione. Boldrini Junior intende bloccare il compagno Mitra, menzogne sulla Resistenza. Questo è ovviamente il giornale, si schiera appunto per questo bel libro, no, così storicamente comprovato e con, eccetera eccetera. Poi non dimentichiamoci che andiamo verso il Natale e allora non può mancare la polemica sui presepi, sugli alberi di Natale, simbolo della cristianità. Siccome non c'è nessuna polemica, nessuna scuola, nessuno, il giornale la mette di suo. E allora la tendenza è presepi, alberi, high tech. Quindi la colpa è dell'elettronica. Perché un conto è mettere lucine con le intermittenze sulla brinità, un conto è mettere una cosa con computer, e qui si radice la radice cristiana dell'Europa, questo è il ragionamento. Antonio Rizzo: sarà certamente un super Christmas quello che si festeggerà quest'anno a Milano, così lo ha chiamato con buona enfasi il comitato delle feste di Palazzo Marino, chissà poi perché in inglese. Qui no, perché no, Christmas, no, siamo italiani, ci mancherebbe un po' di autarchia. Cicoria e Natale. Ma e chissà poi perché i super, in realtà sarebbe stato augurare un secondo Natale ai suoi più laici e un santo Natale che ora crede, ancora crede, c'è questo elemento di vittimismo, no? Cioè, questa perdita di fede. E non si mangia più pesce il venerdì, magari era l'agosto, però era pesce. Comunque, non serve esagerare, anzi, a forza di strafare sfugge l'essenza di una festa che è un presepio e un albero rappresentano. Allora noi ci inchiniamo a questa tradizione e allora è l'attacco musicale. Era Natale nell'Arem del Pascià, gli eunuchi se ne stava mano in mano, tra decine di splendide beltà, distese sopra questo quel divano. Entra il Pascià col suo passo marziale, il truce volto e le potenti spalle, e dice: che volete per Natale? Gli eunuchi gli rispondono: le gloria nei cieli, pace qua giù, tra il bue e l'asinello è nato Gesù. Era Natale nell'oceano indiano, ma piena estate ancora in Vaticano, e il collegio dei santi cardinali ha vietato la pillola ai cristiani. Con questi grida il coro rispettoso, scherzi da prete a dalto livello, ci sembra che davvero sia rischioso fidarsi solamente dello... Gloria nei cieli, pace qua giù, tra il bue e l'asinello è nato Gesù. Era Natale dalla Casa Bianca, l'esercito era lì col presidente a ricevere la benedizione prima di andare nell'estremo oriente. La sacra pace della libertà spetta l'onore a voi di mantenere, tutti in coro risposero i soldati con quella pace scalda di gloria nei cieli, pace qua giù tra il bue e l'asinello. I gufi dunque, che hanno festeggiato a modo loro il Natale, noi con loro, ma prendiamo invece due o tre notizie dell'internazionale oltre alla NATO. C'è la Francia che va allo sciopero in teste per Macron e i sindacati. Giovedì di protesta del settore pubblico, ma non solo contro la riforma delle pensioni. Ricordiamo che la Francia si è insorta sul terreno della riforma delle pensioni, che si vuole portare, penso un po' che scandalo, la pensione a 62 anni. In Italia siamo a 67 e oltre, e poi più di una pensione, di un'opzione donna, di una, quanta gente non siamo fare. Comunque, sono sindacati e sindacati. Sciopero generale, leggo anche da un flash di questa mattina, manifestazione in Francia contro la riforma delle pensioni sociali, caposaldo del programma del presidente Macron. Stop per quasi tutto il giorno di aerei, treni, autobus e metro. In sciopero anche il settore ospedaliero, che garantisce solo le emergenze. Una grande mobilitazione con le oltre 250 manifestazioni di tutto il paese, da sindacati, partiti, opposizioni e gilet gialli. Parigi è blindato, quindi immaginiamoci degli scontri sui Champs-Élysées, con 6.000 agenti dispiegati. Si teme che i Black Bloc si infiltrino nei cortei, li chiamano casseurs in realtà. Mi sposto dalla Francia alla Spagna. Secondo Massimo Serafine e Marina Turi, dal Manifesto, sempre la base militante delle sinistre spinge il governo Sánchez Iglesias. Quindi la rappresentante degli imprenditori spagnoli ha chiesto al PSOE, FEP e Ciudadanos di trovare una soluzione per evitare un governo con Unidas Podemos. Cioè, fate un grande centro qualsiasi piuttosto che le sinistre, meglio qualsiasi altra cosa, dicono gli imprenditori spagnoli al pari degli imprenditori italiani. Nessun segnale dalle forze di centrodestra per una riconversione al centro dello schieramento, che semmai si sposta ancora più a destra verso il partito franchista Vox, quello filo franco. Sì, un paio di notizie dal mondo, siamo in chiusura, 10:23 minuti primi. Questa rassegna stampa, un paio di notizie dal mondo, le prendiamo appunto da Repubblica. Dall'Iran, Rouhani, il presidente, chiede clemenza per i manifestanti disarmati e innocenti. Il presidente iraniano Hassan Rouhani ha chiesto il rilascio di tutti i manifestanti disarmati e innocenti che sono stati arrestati durante le proteste contro gli aumenti dei prezzi a partire dalla benzina. Dopo due settimane i violenti scontri, disordini sono iniziati il 15 novembre dopo che il governo ha aumentato bruscamente i prezzi. E c'è un'altra spy story con la Russia, e il governo della Merkel espelle appunto due che potrebbero essere due spie in merito alla questione del georgiano ucciso in Germania, e c'è questa crisi diplomatica fra Germania e Russia. La stessa notizia viene ripresa anche dalle pagine della stampa, e c'è l'intelligence fra Berlino e Mosca, le due spie che sono state espulse. E last but not least, per ultimo ma non in ultimo, andiamo a parlare di mafia, perché da oggi a sabato a Bologna si svolge la quarta edizione di FILI, cioè il Festival dell'Informazione Libera, e dell'impegno organizzato da Libera Bologna. Per scoprire i temi che verranno affrontati in questa edizione vi abbiamo raggiunto la curatrice Sofia Nardacchione, sentiamo la sua presentazione, con questo vi salutiamo, ciao a tutti. Sì, e poi salutiamo e lasciamo il microfono a Rock and Roll Radio, dove quest'oggi parleranno del concerto al TPO di questo sabato insieme ad Oderso Rubini, ciao. FILI è il Festival dell'Informazione Libera e dell'Impegno, un festival organizzato da Libera Bologna e da Libera Informazione, appunto alla sua quarta edizione. Un festival creato per provare a raccontare le mafie in un territorio che ancora si ritiene abbastanza immune dal fenomeno mafioso, nonostante i tanti processi, le operazioni, i beni confiscati presenti a Bologna. Quali sono, come dire, i contenuti di questa quarta edizione? Il tema principale di questa edizione sarà la corruzione. Come ogni anno abbiamo fatto un lavoro durato tutto l'anno, un lavoro collettivo con diverse ragazze e ragazzi di Libra, per provare ad approfondire un tema specifico che racconti la presenza della criminalità e delle mafie sul territorio. Dopo aver lavorato sul narcotraffico e sul caporalato e lo sfruttamento lavorativo, quest'anno appunto il tema sarà quello della corruzione. Venerdì presenteremo il dossier Corruzione sepolta tra dinamiche corruttive e strumenti anticorruzione, in cui approfondiamo diversi casi di corruzione avvenuti sul territorio e proviamo a tracciare un po' le principali